sfrecciava come un dardo, infuocato e lucente sotto il sole, finché dietro all'ultima curva, mentre cresceva la mia ansia di arrivare, con grande meraviglia scorsi il mare, con grande meraviglia vidi il mare. Per chi vi giunge dall'interno è più normale pensare che una volta era lontano e che arrivarvi fosse un fatto eccezionale da ricordarsi e raccontare come un sogno. Noi come allora ancora oggi ci stupiamo, oggi come allora ci stupiamo. E così in mare eccoci qui, naufraghi in salvo. Sulle tue sponde abbiamo lasciato un altro inverno alle spalle. Alle tue cure finalmente ci affidiamo. I tuoi cieli guariranno i nostri occhi che non hanno per volare questi spazi e neanche il filo del tuo orizzonte su cui posarsi nel posto dove stanno. Per le vacanze si fermavano i miei nonni, di loro immagini di foto in bianco e nero, scattate in qualche estate degli anni 50, nei loro occhi si riflette il sereno e il ricordo di una vita molto bella. Mare trascinami così, portami al largo dove non potrei tornare oltre il filo del tuo orizzonte. Come una nave che scompare ai vostri sguardi sotto a un cielo limpido, navigo fino all'Africa con un istinto migratorio ritornerò ancora a sud a cercare un altro sole.